Bianco e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Tenetevi forte, questa sarà una puntata esplosiva, dovete divertirvi e magari ballare quando ci sarà la musica, scandalizzando il vostro vicino di coda se siete in macchina, perché oggi parliamo di Dinamite, anzi di Mr. Dynamite. È uno dei tanti soprannomi che si guadagna nel corso di oltre 50 anni di carriera straordinaria il nostro protagonista di oggi. Chiamato anche Soul Brother Number One, il più grande lavoratore del mondo dello spettacolo, Funky President, ma soprattutto conosciuto come il padrino del Soul, James Brown. Considerato l'inventore della funky music, uno dei più influenti musicisti della nostra epoca, James Brown non canta, non suona, non urla. James Brown è James Brown. Prende possesso del palco, del pubblico, ne cattura l'energia, la filtra attraverso la sua anima e la rigetta centuplicata nella sala. È l'essenza stessa del soul, una forza incontenibile per una performance che ogni volta è un'esperienza indimenticabile. Voglio che le persone, quando vengono ai miei concerti, abbiano di più di quello che si aspettavano. Voglio che il mio concerto sia un'esperienza intensa, che alla fine se ne vadano quasi stanchi per quanto hanno ballato e cantato, perché questo è il motivo per cui sono venuti. È un artista appassionante, coinvolgente, è considerato da molti l'iniziatore di una serie di filoni, tra cui il funky, il soul, in un certo senso anticipatore del rap. Oggi ripercorreremo le tappe di quella che è stata la sua vita, vissuta a 100 all'ora, è fatta di successi stratosferici, arresti, abusi d'alcol e droga, furibonde liti con la moglie di turno, rocamboleschi inseguimenti con la polizia, impegno sociale contro le discriminazioni razziali. L'America è un paese fantastico. L'unico al mondo dove inizi facendo il lustrascarpe a 6 anni, finisci in riformatorio per rapina e arrivi ad essere ricevuto dal presidente in persona. Magari non tutti, però lui sì, e ha il dono della sintesi. In due frasi c'è tutta la sua vita. E negli Stati Uniti la possibilità di riscattarsi è comunque un dato di fatto. Lui lo sa bene, perché i conti con la vita inizia a farli molto presto. Nasce il 3 maggio 1933 in una baracca a Barnwell, nel South Carolina. Cresce a Augusta, in Georgia. La sua è una famiglia nera, poverissima. Lui ci deve guadagnare da vivere fin dalla tenera età. A 3 anni, raccoglie il cotone, a 6 anni fa il lustrascarpe, a 10 accompagna i soldati nel bordello in cui i genitori lo hanno abbandonato. Beh, non c'è che dire, un inizio promettente. Commette qualche furtarello, un po' da mangiare, qualche maglietta, un paio di dischi, ci prova con un'auto, ma lo beccano, lo rinchiudono nell'alto reformatorio di Tocoa, un carcere minorile. Siamo nel 49, James Brown ha solo 16 anni. Peccato, perché ha un talento naturale per la musica, canta, balla, suona parecchi strumenti, dimostra doti naturali incredibili senza avere mai studiato. C'è una canzone di quel periodo che gli piace tantissimo, Caldonia di Louis Jordan. Dopo 13 anni e molti successi se ne ricorderà e la reinterpreterà a modo suo. Thank you. c'è ben poco da fare. La musica rappresenta per James Brown uno scopo, qualcosa per riempire le giornate. Insieme a alcuni compagni di cella mette su un gruppo gospel, cantano durante le funzioni religiose, devono costruirsi gli strumenti, va benissimo un pettine della carta, un mastello di plastica per fare il basso, una specie di mandolino realizzato con una scatola di legno, e James la suona conquistandosi il primo dei suoi soprannomi, Music Box. Sono passati 3 anni da quando ha messo piede nel riformatorio e le sue giornate le passa così: o suona o gioca a baseball. Proprio durante una partita tra la squadra del riformatorio e un gruppo di ragazzi di un oratorio vicino, conosce Bobby Bird, destinato a diventare una delle figure mitiche del rhythm and blues. È un grande cantante solo, un talent scout e soprattutto un produttore discografico. A quel tempo io avevo 18 anni, James 19. Giocammo una partita uno contro l'altro. Dopo lo sentii suonare e cantare. Era pazzesco. Io avevo un gruppo gospel e pensai: cavoli, se venisse a suonare con noi faremmo scintille. Bobby Bird rimane talmente impressionato dalla bravura di James che decide di fare tutto quello che può per liberarlo. C'è un problema: James Brown ha ancora 5 anni da scontare in carcere, ma c'è una soluzione. Bobby Bird ne parla con i suoi genitori, perché loro sono una brava famiglia, unita, per bene, e qualche volta accadono i miracoli. Così il 14 giugno del 52 il detenuto James Brown lascia il riformatorio da uomo libero, ha firmato un documento di buoni propositi. C'è bisogno di garanti, i garanti sono la famiglia Bird. James, dopo 3 anni di detenzione, è finalmente libero e felice. È come se volasse sulle nuvole, potrà cantare col suo amico Bobby nel suo gruppo gospel. E non solo, ora ha anche una famiglia. Il nostro protagonista di oggi è James Brown, il mitico Godfather of Soul, come viene soprannominato al culmine della sua carriera. Ma qui ha ancora solo 19 anni, è uscito da un riformatorio giovanile ed è stato ospitato dalla famiglia di Bobby Bird, suo amico, futuro cantante soul, talent scout, produttore. I due ragazzi cantano in un gruppo di estrazione religiosa fondato da Bobby, i Gospel Stray Lighters. Ma per entrambi le cose stanno per cambiare. Agli inizi degli anni 50 la musica popolare americana sta compiendo cambiamenti epocali. Si sta concludendo l'era delle grandi band e stanno arrivando suoni più moderni nel blues e nel rock and roll. È un terreno fertile per lo stile innovativo di James Brown, che trova subito il modo di attecchire e svilupparsi. Così i Gospel Straylighters si scollano di dosso la loro patina religiosa, diventano The Famous Flames. James Brown scrive questa canzone appena uscito dal riformatorio insieme a uno dei componenti della band di Bobby Bird, Johnny Terry. Una demo del pezzo viene spedita a alcune radio locali, i DJ sono riluttanti, è una storia vecchia che si ripeterà per decenni, perché il sound è strano, difficile, non è come suonano le altre canzoni in radio. James Brown insiste, è convinto che la canzone sarà un successo e ci vede bene. Viene passata questa canzone e dopo una sola messa in onda la radio viene subissata di telefonate di ascoltatori che vogliono acquistare il disco, che chiedono di cosa si tratti e chi siano quei cantanti nuovi e quel nuovo sound. Ero sicuro che sarebbe piaciuta. Era una grande novità, ma questo non bastava. Non era solo una questione della canzone. Io volevo diventare uno showman e sentivo che dovevo creare un modo nuovo di presentarmi, di fare spettacolo. Chi assisteva al nostro concerto doveva rimanere semplicemente sconvolto. E qui c'è la prima intuizione. James Brown pensa a qualcuno in particolare. Si chiama Gorgeous George, alias George Raymond Wagner. È un wrestler professionista e James va a una sua performance. La gente impazzisce quando George si presenta sul ring, perché ogni volta fa qualcosa, ogni volta scatena la folla. Arriva preceduto da un valletto che gli srotola davanti un tappeto rosso e getta petali di rosa al suo passaggio. Una bellissima ragazza inonda il ring di Chanel numero 5. Infine arriva lui incappucciato, avvolto da una cappa di seta rossa, poi con un gesto teatrale se la leva, mostrandosi orgoglioso al suo pubblico e mandandolo in delirio. Gorgeous George non è neanche particolarmente forte come lottatore, però diventa il più famoso wrestler d'America. James Brown si convince che anche lui può trasformare ogni suo concerto in un evento grandioso. E la gente, soprattutto gli americani, va in visibilio per certe cose. È evidente subito che lui è il leader della band. Tutti i componenti dei Famous Flames gli riconoscono un carisma unico. James diventa il capo incontrastato. È un perfezionista, è attento a ogni dettaglio, prende in considerazione ogni elemento dello spettacolo che intende realizzare. Al di là delle canzoni, si focalizza sulla sua persona, naturalmente, ma anche sugli altri componenti del gruppo. Bobby Schiffman, figlio del proprietario del famoso teatro Apollo di Harlem, con il quale James Brown manterrà un'intensa collaborazione per molti anni, ricorda la sua determinazione. Se devo citare un performer grandioso, il primo al quale penso è sicuramente James Brown. Era molto esigente, si faceva molta fatica a trattare con lui, perché non ammetteva errori, era severissimo. Ma alla fine devo dire che non è mai esistito un professionista pari a lui. Sì, sì, fate benissimo a ballare in macchina, non vergognatevi. Chi ha la fortuna di assistere a uno spettacolo di James Brown fin dagli inizi della sua carriera vive un'esperienza unica, indimenticabile. È una presentazione clamorosa, precede sempre il suo ingresso sul palco, dove lo attendono gli altri componenti della band che stanno già suonando. Siete veramente pronti per lo show di Super Dynamite? Sto per presentarvi il più grande entertainer del mondo, Mr. Dynamite, lo stupefacente Mr. Piace Piace a se stesso, il migliore di tutto lo show business. Signore e signori, la star dello show. La voce che sentite è quella di Fats Gonder, che è un famosissimo presentatore americano degli anni 60. Il suo discorso è esaltante, è una presentazione sopra le righe, ma si verifica ogni volta che James Brown si esibisce. È un modo per scaldare il pubblico, se mai ce ne fosse bisogno. Una presentazione che fa scuola, perché da allora a decine hanno pensato di iniziare il loro concerto in questo modo, dai Kiss a tantissime altre band. Perfino in Italia qualcuno con un po' di provincialismo ha pensato di iniziare il suo concerto con la presentazione, che allora aveva addirittura un nome, si chiamava Opening Fanfare, fanfara di apertura. Ascoltiamo ancora Fats Gonder. James Brown. sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. Ballando, divertendoci e raccontandovi la storia del padrino del soul, James Brown. Abbiamo parlato della sua infanzia travagliata, la fame, il riformatorio a 16 anni e poi il grande riscatto sociale molto americano, salvato dalla musica, diventa leader della band The Famous Flames, ha un successo strabiliante e poi abbiamo sentito che una presentazione clamorosa precede ogni suo ingresso sul palco, dove lo attendono gli altri componenti della band. Loro sono tutti impeccabili nelle divise di scena. Quando James arriva è un trionfo. Ha il suo look particolare, studiato meticolosamente a tavolino, e i capelli liscissimi, la pettinatura cotonata molto appariscente che fa impazzire gli afroamericani, abbigliamento sgargiante, abiti pieni di lustrini, pantaloni a zampa di elefante esagerati, colori imprevedibili, e poi parte la canzone, la gente non capisce più niente. Maceo Parker, sassofonista di James Brown per oltre 30 anni, ricorda la ferrea disciplina a cui lo showman sottoponeva tutta la band. Dovevi essere sempre puntuale, dovevi avere l'uniforme in perfette condizioni, dovevi assolutamente avere il farfallino, dovevi. Le scarpe dovevano essere lucide, lui si aspettava questo e non c'erano discussioni. Se mentre cantava si accorgeva che qualcosa non era proprio come diceva lui, si metteva davanti a te e apriva e chiudeva la mano, mostrando le cinque dita. Lo faceva seguendo il ritmo della musica e il pubblico pensava che facesse parte della coreografia. Ma noi il significato lo conoscevamo bene. Voleva dire $5 di multa. Ma il marchio di fabbrica degli spettacoli di James Brown è la gag della K. Dopo un'ora di canzoni a ritmo serrato, balletti, urli all'ultimo fiato, James improvvisamente cade in ginocchio sul pavimento del palcoscenico. La sensazione che dà è quella di avere spinto troppo, di essersi sforzato oltre il limite. Si starà sentendo male. A quel punto uno dei suoi collaboratori, di solito il presentatore Fats Gonder, arriva sul palco con una K, una mantella di broccato o di paillette scintillanti, gliela appoggia sulle spalle e lo accompagna dietro le quinte scusandosi con il pubblico. James Brown ha cantato fino all'esaurimento totale, la band continua a suonare, il pubblico a quel punto inizia a applaudire, a urlare, a chiedere a Brown di tornare. Lo showman a quel punto torna sul palco, anche se si racconta di lunghe trattative dietro al palco, perché James Brown, quando firmava il contratto per un'ora, cantava un'ora, dopodiché voleva essere pagato di più se doveva fare un bis. Comunque, lui arriva sul palco, afferra l'asta del microfono, sempre se nel frattempo qualcuno sta pagando i suoi collaboratori dietro, ricomincia a cantare con maggior vigore di prima tra il fragore degli applausi. La trovata della cappa che mi mettevano addosso verso i tre quarti dello spettacolo, mentre io fingevo di essere stravolto e di non riuscire più a cantare, divenne il mio elemento distintivo. La gente lo sapeva che non era vero, aspettava solo che io balzassi nuovamente fuori. Ma piaceva. Accidenti se piaceva. Devo proprio ammettere che fu un'invenzione determinante per il successo di miei show. Oltre alla bravura e alle intuizioni geniali di James Brown, a decretare il successo inarrestabile del grande performer arriva un fatto inaspettato. Il suo agente Clint Bradley è anche l'agente di una delle star più acclamate dell'epoca, Little Richard. È il 1955 quando Little Richard scrive e registra Tutti Frutti, mitica canzone con la sua imitazione di una rollata di tamburo, che diventa un clamoroso successo ed è oggi considerata il suono della nascita del rock and roll. Ma improvvisamente arriva una scelta inaspettata che Little Richard comunica al suo agente. Ho avuto parecchi lutti nella mia famiglia. Mio fratello è morto di infarto. Poi è mancata mia madre. Ho perso anche un caro amico e un mio nipote si è sparato. Allora ho pensato, il Signore mi sta dicendo qualcosa. Ho avuto una rivelazione. Ho deciso di diventare evangelista. Voglio stare con Dio. Così, nel momento del massimo successo, Little Richard decide di lasciare lo spettacolo per diventare un pastore evangelista. Tornerà anni dopo. Però in quel momento la sua decisione manda all'aria tutti i piani. Produttore, agente, musicisti, tutti sono increduli e si domandano cosa fare. Le serate sono già state stabilite, i teatri di mezza America aspettano. Poi Clint Brantley ha un'idea. C'è James Brown. Lui e The Famous Flames possono sostituire egregiamente Little Richard. Sono fortissimi, la gente impazzisce per loro. Nel giro di pochi giorni viene organizzata la tournée che porta il gruppo in tutti i più importanti teatri d'America. A questo punto James Brown ne tira fuori un'altra delle sue. Non tutti possono essere presenti ai suoi concerti, per questo decide di registrare un album dal vivo. Anche lì è un precursore, una cosa che in quegli anni non si fa. Nessuno vuole ascoltarlo. Chi comprerebbe mai un disco della registrazione di un concerto? Bravi. E allora lui si autofinanzia. Mr. Dynamite, the amazing Mr. Please Please himself, the star of the show, James Brown and the Famous Flame. La notte del 24 ottobre 1962 l'Apollo Theater di Harlem a New York è stracolmo. Questo concerto è speciale perché diventa un album di James Brown, Live at the Apollo. Contrariamente alle aspettative degli increduli discografici, è una hit immediata. Rimane per 66 settimane nella classifica dei top pop album. Nei negozi di dischi, in particolar modo quelli degli Stati del Sud, non è possibile soddisfare le richieste dei clienti. Gli ordini vengono fatti a casse. James Brown diventa una leggenda vivente. La consacrazione arriva due anni dopo con il TAMI Show, un concert film realizzato dalla American International Picture. Sicuramente un progetto pionieristico, si tratta di un precursore dei nostri video musicali. Il nome dell'evento, realizzato nel Santa Monica Civic Auditorium in California il 28 e 29 ottobre 64, è un acronimo che sta per Teenage Music International. Partecipano i Beach Boys, Chuck Berry, Marvin Gaye, le Supremes e i Rolling Stones. Ma quello che dà a questo film una notorietà senza precedenti è la performance di James Brown con la sua incredibile energia e i suoi leggendari passi di danza. Right flame. The flames are right here tonight. Yeah, right here. James Brown and his famous flames. Got to hire deeper tone. Voi il filmato non lo potete vedere in questo momento, ma lui qui sta ballando esattamente come anni dopo ballerà Michael Jackson. Guarda un po'. Intanto la performance è talmente incredibile che Keith Richards dei Rolling Stones dichiarerà in più di un'intervista che accettare di esibirsi quella sera dopo James Brown è stato il più grande errore della loro carriera. Non importa come abbiamo suonato, avrebbe potuto anche essere la nostra performance migliore, quella di tutta la vita. Ma non era possibile superarlo. Ci convinsero a suonare per ultimi, dicendoci che saremmo stati il gran finale, prima che tutti gli artisti salissero di nuovo sul palco. Ma il re della serata fu James Brown. James ha raggiunto il successo. Non è più povero, non deve lucidare scarpe, non deve rubare e soprattutto può esprimere se stesso. Decide di farlo come meglio sa, cioè con la musica. È un po' che ha in mente una canzone, un sound particolare. La scrive di getto, la registra di getto, realizzando il disco in meno di un'ora. Il successo è strepitoso. Con questa canzone vince il suo primo Grammy Award. Ma non solo, i critici musicali fanno risalire proprio a questo pezzo la nascita del genere funky, termine afro che sta a indicare quel particolare odore sprigionato da un corpo eccitato. Funky diventa per estensione sinonimo di cosa divertente, cosa che dà piacere. A sentirla questa canzone tutta di James Brown, musica e parole, è davvero divertente e piacevole. La canzone si chiama Papa's Got a Brand New Bag. Molto più che un semplice cantante, compositore di successo, showman di grande talento, James Brown evolve la sua carriera su livelli ben più profondi. Nel 68, infatti, scrive una canzone destinata a diventare un vero e proprio inno del popolo nero. Say it loud, I'm black and I am proud. Dillo a voce alta, sono nero e ne sono fiero. È un grido di battaglia, il titolo che diventa uno slogan delle comunità nere ha il merito di contribuire a abolire il termine dispregiativo nigger a favore del termine black. Il 4 aprile del 1968 viene assassinato il reverendo Martin Luther King. In tutto il paese si verificano sommosse, attentati e manifestazioni anche molto violente. Una delle città più colpite è Boston. James Brown si trova proprio lì e al Boston Garden, proprio la sera dopo l'assassinio, è in previsione un suo concerto. Le forze dell'ordine pensano che sia meglio cancellarla quell'esibizione. Troppi neri tutti assieme possono essere una situazione pericolosa. C'è chi invece pensa che una cancellazione possa scatenare ancora di più gli animi. James Brown risolve la cosa a modo suo. Lo spettacolo ci sarà e lui parlerà al pubblico. È una dimostrazione di grande coraggio. Non si sa chi possa essere presente tra la folla. Stiamo ancora parlando di un'epoca dove non ci sono i metal detector. Qualche testa calda con una pistola potrebbe anche fare una follia. Questa sera, prima di cantare, voglio ricordare qualcuno che ho avuto il piacere di incontrare di persona, che tutti noi ammiriamo tantissimo e che non è più con noi. Siamo qui per onorarlo e non per fare cose che lui non avrebbe approvato. Per questo, ascoltate il mio concerto e poi tornate alle vostre case pacificamente. Mr. Martin Luther King. Deve essere stato facile gestire la folla in quel momento. Se James Brown ha paura, non lo dà a vedere. Quello che è certo è che un uomo senza istruzione, che non ha mai parlato di non violenza, che non è un predicatore, riesce con la sua sensibilità a tranquillizzare gli animi. La registrazione dello spettacolo diventa uno speciale televisivo intitolato The Night James Brown Saved Boston, la notte in cui James Brown ha salvato Boston, facendo di lui una leggenda per le genti nere e non solo. Per almeno altri 10 anni da quella sera incredibile, The Godfather of Soul continua a produrre dischi di grande successo, a fare concerti per i quali trovare un biglietto è una lotta. Sul finire degli anni 70, molti idoli delle folle come lui, Aretha Franklin, Ray Charles, vedono una certa stanchezza nelle loro carriere, arrivano altri personaggi, il cambio generazionale non è favorevole, loro devono trovare il modo di rinnovarsi. Anche James Brown partecipa con un cameo al film cult The Blues Brother, così come Ray Charles e Aretha Franklin, e così tutti e tre vengono conosciuti anche presso un pubblico più giovane. The band. Do you see the light? The band. Do you see the light? What light? Have you seen the light? Yes. Yes. Jesus H. God damn it, Christ! I have seen the light. Grandi successi, ma anche grandi eccessi nella vita di James Brown, perché i 3 anni che passò da ragazzino in riformatorio non sono stati l'unica volta in cui lui finisce dietro le sbarre. Intanto i litigi con le sue varie mogli sono litigi famosi per la loro teatralità. Poi nell'88 viene arrestato 2 volte, in maggio per possesso di droga e di armi illegali, a settembre per un rocambolesco inseguimento con la polizia sulla statale 20 vicino al confine tra la Georgia e il South Carolina. L'accusa è grave: possesso di armi non dichiarate, di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, guida pericolosa e chi più ne ha più ne metta. Si becca 6 anni, alla fine ne sconta solo 3. E ritorna in galera nel 2000 per aver aggredito con un coltello da cucina un tecnico che gli stava riparando un guasto in casa e forse non voleva fargli la fattura. Una volta uscito tutto il suo è un ritorno trionfale che gli regala ancora grandi successi fino alla sua morte, avvenuta nel 2006. L'anno scorso è uscito un film bellissimo sulla sua biografia, Get On Up, prodotto da Mick Jagger e interpretato dall'attore Chadwick Boseman. Nessuno mi ha mai aiutato. Nessuno. Quando salgo sul palco è meglio che siate pronti, specialmente i bianchi. Camminavano un metro da terra perché stavano con James Brown. Può bastare, signor Bird? Temo di no, signor Brown. Ho detto può bastare? Il mondo ha ancora bisogno del funk. Ascolta bene. Quell'uomo è un genio. Questa è la classica storia dove i colpi d'ala in alto e in basso si susseguono per tutta una vita, come James Brown, che ha saputo diventare il simbolo per una generazione, per una musica e per un popolo, e poi ha avuto anche una serie di flessioni psicolegali notevoli, ma rimane un uomo che ha fatto la storia. Se avete altri commenti da farci, potete scrivere al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure potete rivolgervi al nostro podcast se ci sono delle puntate che non avete potuto sentire. Insomma, in qualche modo ci sentiamo e ci troviamo. Ciao, a domani. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno.